nuovo giorno, nuova lettera, nuova parola. Sì, l'enciclopedia aspetta una nuova definizione, nuova, quindi allora... Diciamo un'altra volta nuova. Nuova, nuova, nuova. Bambini, siete pronti per girare nuovamente sì, la ruota? Sì, sì, sono pronto, non siamo pronti, tocca a me. Aspetta un attimo. Sì, dai, fa la girare. Fa la tua, ci tieni, fa la tua. Gira, gira, gira. Grazie. Igiene. Igiene, forse bisognerebbe igiene. Parlarne qualche volta all'asilo, sì, perché sì, i bambini non sempre... Soprattutto al bambino Alberto. Non arrivano spesso in condizioni ideali, però... No, però sentite, facciamo una parola di grande attualità. Io farei I come insonnia. Ma cosa c'entra l'attualità con insonnia? È una grande scusa. Mia attualità. Ah, tua, ma perché? Io ultimamente, la sera, non riesco a dormire. Cioè, io la sera... Non riesco a dormire, cioè? Io non riesco a dormire. Non riesco a dormire, vabbè. Non so cosa fare. Come non sai cosa fare? Prendi qualcosa per dormire. Ma che, piena, ma, la farmacia, drago, è piena. La crisi, è che... la crisi, c'è anche la crisi del sonno, eh? Sì. L'Italia dorme male, ci sono troppe preoccupazioni. Quello è vero. Ti metti però... lì a letto, guardi il soffitto, provi a pensare a una delle cose che ti angosciano, basta sì. Una. Bollette, multe, quelle basta cose una. Lì, solite. Bollette, multe. Sì. E vabbè, prendi qualcosa in farmacia, è pieno sì, di roba per dormire. Qualcosa. Prendo qualcosa, sì, ma poi dopo, siccome non fa subito effetto, magari ne prendi troppo. Eh sì, perché tu sei nervoso, non hai pazienza di aspettare. Perché hai l'insonnia e quindi Bravo, sei nervoso. È un gatto che si morde la coda. Up, down, continuo. E poi sulle spalle ti compaiono il diavoletto e l'angioletto. Vabbè, certo, uno ti dice fai così, l'altro Anzi, fai no, cos'è. Ti compaiono Morfetto e Nervetta. Chi? Ma come, drago? Morfetto e Nervetta. Le spassose avventure di Morfetto e Nervetta. C'ho i nervi, c'ho i nervi. Morfetto, che fai, dormi? Ma c'ho i nervi, mi fai venire i nervi quando dormi. E se io ho i nervi non riesco a dormire, perciò se dormi tu non dormo io, hai capito? Ma so, hai capito? Ma so. E allora sai che cosa faccio? Fumo, sì, ecco qui, mi accendo una bella sigaretta con i nervi. C'ho i nervi, fumo, ti dà sui nervi, vero? Ma so, ma come mi dà sui nervi che non ti dia sui nervi che io fumi? Ma so. Come fai a essere così insensibile al fatto che io non dormo? Perché c'ho i nervi, eh? Ma non puoi dirmi almeno una parola? Ma fanculo. ABC! Siete svegli, bambini? Ci siete? Sì, siamo qui. Avete imparato sì, fin qui? State attenti che poi alla fine vi interroghiamo, eh? Allora. Va bene, allora, far dormire i bambini, l'insonnia, se vogliamo parlare di insonnia, parliamo dell'insonnia nei bambini, nei neonati, che non fanno mai dormire i genitori perché piangono. Hanno le è una delle cose, sì, è una delle cose che fa anche i dentini. Finire i divorzi. Se parliamo di divorzio, come la scorsa settimana, anche no, causa di divorzio, a volte è l'insonnia generata dai bebè. Però da quest'anno i genitori possono non sentirsi in colpa se lasciano piangere i bambini fino allo sfinimento. Ah no, perché? Perché Eduard Estivill, il famoso medico catalano metodo Estivill, anzi il metodo Estivill, ha proprio raccomandato di non fare niente. Quando il bambino piange, dopo un po' smette perché si stanca e quindi chi se le frega, capito? Ma scusa, ma non era più bello con le ninne nanna? Con le ninna nanne? Ninne nanne? Le ninne nanne. Come si dice, bambini? Come si dice? Le ninne nanne. La ninna nanna e... Nanna, vai a fare la nanna. Ma sì, no? Ma mai una volta che sono sul pezzo che ti rispondono, eccetera. Vabbè, a voi ve la cantano la ninna nanna ai vostri genitori? Ma quale ninna nanna? Cos'è che ninna nanna? Non se la ricorda più nessuno, le ninna nanna. Ah, no. Ma adesso basta un telefonino, drago, basta una suoneria, una qualunque, e fai partire, non so, la ninna nanna di Brahms, sto. Brahms, no? Questo Brahms. Ma che è? I carabinieri. Ma non è carabinieri, questo è un trapano, la coscienza sfoglia. Questa sarebbe una ninna nanna. Brahms, no, ma basta Brahms e si addormenta. Ma lascia perdere le suonerie. Io direi che si può usare la musica rock come ninna nanna. Ma come rock? Sì, ma non il rock, l'hard rock. Il rock è quello classico un po'. Tipo Lou Reed, no? Che ha quella voce narcotica, narcotizzante, che ti addormenta. Che ti... Per forza, è strafatto di eroina, ti addormenta. Good night, ladies. Ladies, good night. Senti, buonanotte, signore, buonanotte. It's time to say goodbye. Infatti, te l'ho Let detto. Me tell you now. good night, ladies. Vabbè. Ladies, good night. Ma ascoltare. Ma che canzone è? It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Canzone. Funzionale, funziona. Sì, anche i bambini vedo che hanno subito il colpo. Sì. Allora, bambino Alberto, abbiamo parlato oggi di insonnia. Tu che cosa hai capito? Descrivici l'insonnia. No, l'insonnia, allora, ho capito che non ha significato, no? Perché allora, il dormire, c'è il sonno, cioè uno o dorme o sta sveglio, no? Cioè, quindi questa insonnia è una roba che non si capisce. E beh, no, o sonno, dormo, se vuoi te lo mi spiego. Sveglio la mattina e allora, sono sveglio. Infatti, cioè, perché sì, l'insonnia è quella che hanno le persone che vorrebbero dormire ma non ci riescono, perché bisogna anche essere capaci a dormire. Cosa credi? Cosa dici? Sono capace, certo. Io che sono un bambino adesso, io ho sempre dormito. Ma questo, sì, forza. Ma tu pensa per esempio a tua mamma o tuo papà, sono sempre lì che dormono come dei sassi. No, hanno le preoccupazioni della vita adulta che non li lascia dormire, cioè, capito? No, infatti no, mio papà ogni tanto dorme poco, nel senso che vedi, lui la sera a casa guarda la televisione con mia mamma, no? Poi sì, a un certo punto mia mamma dice: andiamo a letto a dormire. Andate tutti a dormire, sì. Ma sì, andiamo, va. Però mio papà dice: ma aspetta un attimo, ma che non ho visto il gol del Milan. Guardo il gol del Milan che li fanno adesso. Sì, però mica gioca, scusa, non è che gioca tutti i giorni il Milan. No, ma lui li perde i gol, no? Quindi dice: se mi fa vedere, voglio vedere il gol del Milan. Ha segnato il faraone, voglio vedere. Va bene, intanto vado a dormire. Poi mio padre sarei fino alle 3:30 di mattina, capisci? Ma tu come fai a saperlo intanto? Tu sarai a letto che dormi? No, magari mi sveglio di notte, no? Cioè? Mi sveglio. E quindi soffri di insonnia? Cosa vuol dire? Ma no, mi sveglio. Cioè, se mi faccio un incubo mi sveglio, oppure mi scappa la pipì, che se no me la faccio addosso, io mica la faccio a letto, Ah, beh, giusto. Ho finito l'altro ieri, l'ultima notte con la pipì a letto. L'altro ieri, l'altro ieri. Quindi sono pulito. Sono pulito. Pulito, ma che terminologia da tossicodipendente. A parte, che pulito, non stiamo facendo igiene. Come stiamo facendo tu tutte le volte. Allora, capisci una volta male. Si ribalta la faccenda. Uno dice igiene, io mi preparo, quindi mi estraneo completamente dalla realtà per studiare igiene. No, quindi tu dormivi durante la puntata. Sì, tu dormivi durante la puntata sull'insonnia, quindi proprio sei fuori. Sono addormentato anche io. Ci avete fatto sentire la nonna. La nini. Quale nonna? La nini. La nostra zitta non capisce niente, cioè, no? Anche la nonna nina sanno la dire nina, no, perché non sono più abituati, e siamo addormentati, capisci? Sì, certo. Insomma, ma tuo papà alla fine sta sveglio fino alle 3:30, tu ti svegli, lo vedi facendo la pipì e poi nessuno dorme in casa, cioè, dopo io torno a letto e lui e mio padre sta solo e non dorme mai, e no, lui c'è la TV accesa, lui pensa, poi capisci? Cosa pensa? E conta, no? Conta le capre. Contro le capre, no? Piccole. Poi le conta in poltrona. Che poi dice: appena mi sto addormentando, corro a letto. Che conta le capre, no? E uno, e due, tre, quattro, cinque, sei. Vabbè, capre, le pecore. Le capre, pecore, cioè che la differenza, come dire cinese, giapponese, le capre, no? Un programma di... Torniamo domani con una nuova lettera, probabilmente la C di cinesi. Beh, o la G di giapponesi, uguale, no? C uguale. Tanto. A, B, C, D, A, D, D.